181. Frittelle di tondone. Se non sapete cosa sia un tondone, chiedetelo a Stenterello, che ne mangia spesso perché gli piace. Farina grammi 250, uova numero 6, acqua decilitri 3, un pizzico di sale, odore di scorza di limone. Stemperate la farina con la detta acqua versata poco per volta e salatela. Gettate questo intriso in padella per cuocerlo in bianco con burro, olio o lardo e quando è assodato da una parte, voltatelo con un piatto dall'altra ed eccovi il tondone. Ora pestatelo nel mortaio con l'odore suddetto e rammorbiditelo con le uova, due a un tratto, le altre quattro una alla volta con le chiare montate, lavorando molto il composto. Friggetelo a cucchiaiate per ottenere le frittelle che, gonfiando molto, prendono l'aspetto di bombe, spolverizzatele di zucchero a velo. Al composto potete unire, piacendovi, grammi 100 di uva Malaga. Ma allora questa tenetela prima in molle per 24 ore nell'acqua fresca e dopo toglietele i semi. Potranno bastare per 6 persone o per 4 se fate la metà della dose.